Il graffio di Dario Ceccarelli. I miei figli non canteranno l'inno d'Italia, tuona Bossi. L'importante, tra un calice e l'altro, è che non lo canti lui. Liviamo nei lieti calici che la bellezza infiora, e là fuggevol.